9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 11 giugno e mentre i vasti clamori sulla stampa per l'approvazione della legge sulle intercettazioni e poi naturalmente ancora seguiti di commenti polemici per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri ieri del, chiamiamolo diktat, insomma della forte pressione alla Commissione Europea per l'innalzamento del tetto pensionabile per le dipendenti pubbliche, per le dipendenti pubbliche scusatemi, a 65 anni, ma dal 2012, quindi con la bellezza di 6 anni di anticipo, un vero gradone rispetto a quello che aveva chiesto il governo, i più delle attenzioni ai mondiali, per chi interessa, che iniziano oggi, ma noi invece andiamo un pochino fuori da questi fuochi e ci prendiamo una riflessione oggi su un tema che a me sta molto a cuore e che è poco approfondito. Se ne parla molto da 20 anni, a dire la verità, cioè il federalismo fiscale, ma se ne parla spesso dividendosi, associandolo a polemiche politiche di parte, schierandosi a favore o contro a seconda che venga interpretato o avversato come strumento che addirittura minerebbe l'unità nazionale, ma poi concretamente è un po' difficile davvero sentire in profondità, spiegare e capire in che cosa può consistere davvero e con quali effetti, tranne che su una formula, quella dei cosiddetti costi standard. Allora, poiché mentre si discute tanto della manovra, il più del contenimento, del reindirizzo verso logiche di efficienza della spesa pubblica italiana potrebbe, dico potrebbe, venire dal federalismo fiscale, a patto che i numeri e i criteri tecnici con cui bisognerà riempirne i contenuti vadano in questa direzione oppure no. Ebbene, siamo a poche settimane, in teoria, calendario alla mano, dall'ingresso in campo di uno dei decreti attuativi della legge delega del federalismo fiscale, tra i più attesi e tra i più spinosi, perché è quello che dovrebbe definire i criteri del costo standard proprio per la sanità. E come sapete il Fondo Sanitario Nazionale, 125 miliardi di euro nel 2009, è l'80+% delle competenze delle regioni. Quindi a seconda di come si definisce il criterio per calcolare il costo standard o comunque per calcolare la base sulla quale si fa la parificazione della spesa sanitaria nelle diverse regioni, capite bene che il federalismo fiscale in sanità può ottenere effetti molto diversi. Sui quotidiani è stato solo 24 ore a scriverlo una settimana fa, e per esempio è apparso il seguente esempio: se si adottassero i costi standard della sola regione Lombardia e lo si introducesse per tutto il resto delle altre regioni, sui 125 miliardi ci sarebbe un effetto di rientro per le regioni che sono più lontane dagli standard di efficienza, cioè di costo per servizio, per qualità del servizio offerto, fino a, si è detto, si è letto, 16, 17, 18 miliardi di euro. Se invece questo criterio lo si estende alla seconda regione più efficiente, cioè il Veneto oltre la Lombardia, si scende già di molto sotto i 10 miliardi. Se poi lo si estende ad altre due regioni, quindi si annacqua per così dire, ma sempre il campione, ma sempre con riferimento alla regione più efficiente, cioè si aggiunge l'Emilia Romagna e la Toscana, si ottiene un riequilibrio per soli 2,4 miliardi di euro. Naturalmente questi sono esempi un po' campati in aria, perché come vedremo oggi non è affatto detto che davvero il costo standard, dopo che ce ne riempiamo la bocca per tanti anni dicendo che è la svolta rispetto al costo storico in base a cui avveniva l'allocazione dei trasferimenti dal centro verso la periferia, il costo storico naturalmente premiava chi era più in deficit, che aveva speso di più e quindi spesso chi aveva speso peggio, e questo spiega gli enormi differenziali sul territorio. Ma dopo che ce ne riempiamo la bocca per tanto tempo, scopriremo oggi che in realtà il costo standard, cioè misurare per ogni tipo di acquisto, di servizio sanitario prestato negli ospedali, a fronte della sua qualità, e a parole facile, ma nella realtà è un problema microeconomico pressoché irrisolubile. Tanto è vero che più dicono: ma non è coi costi standard che noi possiamo farlo davvero al federalismo fiscale in sanità, ma coprendo una quota capitaria, cioè per cittadino, definendo una quota per ogni cittadino standard, e poi per il resto il problema è quanto è finanziato dalle regioni e quanto è invece perequato dal centro. Come vedete, sono due strade a loro volta di nuovo molto diverse. Allora, per capire tutto questo, dopo questa introduzione, abbiamo chiesto oggi a Fabio Pammolli, che è il presidente del CERM, Competitività e Regolazione Mercati, lo conoscete, e che ha appena sul sito del CERM ieri rilasciato uno studio che è fatto sulla base non del costo standard ma della quota capitaria. Io saluto Fabio Pammolli, buona giornata. Buongiorno. E poi abbiamo per i primi minuti con noi, e quindi iniziamo da lui, Luca Antonini, che è il presidente della Commissione Tecnica per il Federalismo Fiscale, insegna diritto costituzionale all'Università di Padova. Buongiorno presidente Antonini. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Allora, siccome so che tra pochissimo ha da fare per una conferenza stampa, intanto ci può illuminare su quale di queste strade, presumibilmente senza svelarci alcun segreto, alla fine è più probabile che la Commissione Tecnica imbocchi? Ecco, io faccio però una premessa con lei, Oscar, perché appunto con lei è sempre molto interessante ragionare, è una delle poche persone che riesce veramente a cogliere i problemi nel loro cuore. Dio mio, vedo allora, delle mani avanti. Vedo le mani avanti, ma infatti è una mano avanti, ma perché il problema è reale. Allora, le sembra plausibile che un presidente di regione che vince le elezioni ci metta mesi per riuscire a capire qual è la situazione del bilancio della sanità della sua regione? Stiamo parlando della Calabria, mi pare di capire. Oppure anche della Campania, che Scopellitti appunto entra e ancora nebbia abbastanza fitta per riuscire a capire qual è veramente il dato reale. Addirittura, no? In Calabria è stato affidato a un auditing esterna il compito di capire come stanno le cose, a KPMG. Cioè, ecco. Sì, che poi ce n'è voluto anche un ulteriore rafforzamento, perché anche lì facevano fatica ad accapezzarsi dentro la questione. Se noi prendiamo poi spesso le denunce che fa la Corte dei Conti, ci accorgiamo che la prima denuncia riguarda l'inaffidabilità dei dati contabili. Allora questo è un problema grande come una montagna. Innanzitutto, secondo me, il federalismo fiscale dovrebbe risolvere questo problema. L'omogeneità dei criteri dei bilanci, che restano tra loro totalmente diversi. Ecco, allora, sulla sanità è il caso più eclatante, ma adesso nel lavoro che abbiamo fatto dentro la COPAF per cercare di capire quali sono i trasferimenti statali che devono essere fiscalizzati, ecco, qui siamo resi conto che, per esempio, per quanto riguarda i trasferimenti dalle regioni ai comuni, nei bilanci dei comuni c'è un dato, spesso nei bilanci delle regioni c'è un altro, eppure la cifra è la stessa. Ma lì intervengono le contabilizzazioni, per esempio, del patto di stabilità, per cui tante volte, anche per cercare di stare dentro il patto, i criteri contabili allora vengono utilizzati in un modo tale per cui alla fine abbiamo questo risultato. Risulta dai bilanci delle regioni una cifra, risulta dai bilanci dei comuni un'altra. Capisce che siamo dentro un sistema che da questo punto di vista, secondo me, è veramente, veramente indietro. Sì. Cioè, un sistema non trasparente, ma le dico, ma se un presidente di regione, con la macchina, diciamo, istituzionale che ha, con la potenza anche tecnica che può avere a suo servizio, o deve impiegare dei mesi per capire qual è il bilancio della sanità, ma si figuri un cittadino che va a votare, come, su che cosa, sulla base di che vota e giudica quell'amministrazione? Capisce che il federalismo fiscale, che implica la resa del conto, deve innanzitutto risolvere questo problema, perché se non ci riesce il Presidente della Regione dopo tre mesi, si figuri il cittadino che va a votare. Capisce? Questo è un problema gravissimo. Che se noi non risolviamo questo, poi non abbiamo di fronte la possibilità che si attui il federalismo fiscale, che vuol dire il controllo con il voto. Ma ecco, in assenza di questi dati contabili che dovrebbero, appunto, costituire il presupposto iniziale, per così dire, come è pensabile che poi la commissione tecnica possa svolgere al meglio, senza andare incontro poi a contestazioni radicali da parte di chi non ha i dati e che sicuramente dirà che non è vero niente la stima presumibile di quello che ha sprecato, insomma? Ecco, Questo è il problema. Allora, io credo che il decreto sui costi standard debba innanzitutto individuare delle metodologie e far entrare in campo soggetti che consentano invece di arrivare ai dati reali. Questo credo che sia il primo fattore fondamentale. Mi pare di capire che si evochi, senza dirlo per non mettere, si evochi dei soggetti terzi rispetto a quelli però che spendono, ho capito bene? Ma ecco, su questo ci stiamo ragionando, potrebbe essere un'ipotesi, potrebbe essere un'altra, potrebbe essere studiare dei meccanismi già all'interno del sistema, ma le faccio solo un esempio. Se si prevedesse, per esempio, un meccanismo tipo l'emersione delle consistenze, per cui 6 mesi prima delle elezioni c'è una specie di certificazione, lasciamo libera anche la regione, eccetera, però una certificazione pubblica del quello che è il dato reale della sanità 6 mesi prima delle elezioni, in modo che i cittadini sappiano, e un governatore sa che andrà di fronte a questa emersione di tutte le consistenze e con queste si presenta al voto. Una società per azioni, se una società deve essere venduta, deve essere chiaro qual è la condizione del suo bilancio, no? Certo. E riuscire a ottenere una cosa simile, secondo me, avrebbe portato a dei enormi risparmi sulla sanità, perché una cosa del genere, un meccanismo del genere, costringerebbe appunto a stare molto attenti a quello che si fa. Si porta in consiglio regionale, deve essere approvata poi, invece, quindi tutta la visibilità pubblica e tutto il controllo anche da parte dell'opinione pubblica rispetto a questa emersione. Oppure, altro problema, spesso a causa di una incertezza dentro la legge, una URL è praticamente programmatore, erogatore, pagatore e controllore allo stesso tempo. Anche questo non funziona. Molte regioni sono recedute rispetto al ruolo di controllo che avevano rispetto alle aziende sanitarie locali. Ecco, anche questa è una cosa molto discutibile, capisce? Perché a questo punto la trasparenza del sistema diventa difficile da gestire. Per cui, rispetto alla domanda che faceva, io dico c'è un problema prioritario, perché anche se noi prendiamo una strada o l'altra, ma non risolviamo questo, dice che l'effetto è un effetto depotenziato, perché questo problema delle contabilità che hanno questi limiti è secondo me il problema principale. Quindi si sta cercando di ragionare, di studiare le possibilità che permettono di risolvere innanzitutto questo problema. Poi dopo, rispetto a quello che diceva lei, allora quale indicatore viene preso per, su quello stiamo ancora lavorando. Adesso è difficile in questo momento fare un'ipotesi, ma da un certo punto di vista io questo lo ritengo quasi il problema secondario rispetto, perché questo poi è anche un problema politico, diciamo. Evidentemente si tratta di calcolare poi dopo gli effetti che ha la decisione su una formula piuttosto che sull'altra, evidentemente. Però io credo che rispetto a questa decisione sia pregiudiziale risolvere l'altro problema, quello che permette di avere appunto dei dati attendibili. Perché è attraverso questi che posso capire qual è il reale impatto di una situazione o di un'altra. Noi abbiamo praticamente ormai, mi sembra, 5 regioni commissariate sulla sanità. Abbiamo il federalismo e dal 2001, federalismo stile canadese per l'addecentramento di funzioni che è stato attuato, e 5 regioni commissariate. Le sembra una somma, un totale ragionevole questo? No. Vuol dire che qualcosa non ha funzionato dentro. No. Bene, allora, siccome avevamo l'impegno con lei fino a 25, io la ringrazio innanzitutto perché ha fatto capire con grande chiarezza a chi ci ascolta quanto si trattasse di dissodare i presupposti strumentali e tecnici per poi passare alle decisioni dei criteri in base a cui farsi una valutazione se ancorare poi la quota da perequare a un costo standard per qualità di servizio o a una quota capitario per cittadino. Ma qui siamo ancora all'ABC, cioè al fatto che numerose, importanti regioni italiane arrivano a questo appuntamento dopo 20 anni in cui strepitano, perché magari sono proprio quelle che strepitano di più, che dicono ai loro elettori che questo è un meccanismo per attentare, per levare loro le risorse. In realtà poi si presentano avendo buttato dalla finestra pacchi di miliardi, per cui chi viene eletto dopo si trova trova poi in mutanda in condizione di dover dire ai propri elettori: guardate, io non posso fare niente perché chi mi ha preceduto in realtà ha raccontato fior di balle, senza che ci sia nessun meccanismo né di responsabilità civile né politica né patrimoniale, come probabilmente dovrebbe essere anche concepibile fare. Allora, la legge delega introduceva questo criterio della responsabilità e il presidente Antonini ha spiegato che in realtà per renderlo operante bisogna immaginare un'architettura contabile condivisa, da cui siamo lontanissimi, e poi immaginare un rendiconto agli elettori prima delle elezioni con certificazioni esterne. Questa mi sembra una strada che, se venisse davvero approvata la politica, io rimarrei molto sorpreso, a dire la verità, e so che Antonini si batterà per questo, ma io rimarrei molto sorpreso, visto che rispetto alla manovra, se senti i presidenti di provincia non bisogna toccarli, se senti i magistrati non bisogna toccarli, se senti questo non bisogna toccarli, dubito assai che poi, quando si tratti invece della sanità nelle regioni, davvero vi sia un meccanismo di certificazione preelettorale di come vanno le cose. Volesse il cielo, questa è la mia opinione. Ora, passiamo con Fabio Pamolli invece a illustrare un secondo il criterio in base al quale, fatto stato, diciamo, che si riesca ad appurare come stanno le cose, ci siano criteri contabili delle regioni, riguarda anche i comuni, ma standard. Vediamo un secondo quali effetti diversi avrebbe imboccare il criterio del costo standard, di cui si è tanto parlato, piuttosto che quello della quota capitaria. Allora, professor Pamolli, il suo studio che dice? Che strada si sente di consigliare? E con quali conseguenze rispetto a ciò che si spende oggi? Il collega Antonini ha evidenziato con grande chiarezza sia i problemi di infrastruttura amministrativa e contabile che si pongono davanti al disegno federalista, sia la prossimità tra le questioni amministrative e contabili e questioni che invece hanno natura politica. Ora, se accetta la piccola provocazione, per certi versi il dibattito sembra rimasto su alcuni passaggi quello preunitario. Che portò il Piemonte a decidere di realizzare l'unità d'Italia non attraverso il modello prussiano di negoziazione con delle regioni che avevano già un'autonomia amministrativa e una classe amministrativa forte, ma per annessione, proprio per la mancanza di una classe politica e amministrativa nel Regno delle Due Sicilie adeguata. E con una batteria di omologazione di codici e criteri contabili, le famose leggi dell'unificazione del 1865 che si sono studiate poi per 100 anni in tutte le università italiane. Insomma, alle brutte, visto che i criteri sono diversi, vi dico io quali sono. Eccoci tornati in studio col professor Fabio Pamolli del CERM, stavamo iniziando il discorso su che cosa capita se si adotta come criterio per il federalismo fiscale in sanità quello non del costo standard di cui si è tanto parlato e che però avrebbe parecchi problemi microeconomici nel definirlo e condividerlo, perché voi capite che se per ogni prestazione, servizio, acquisto bisogna definire strutture di costo che risentono dell'offerta locale nel mercato regionale, perché le strutture di costo e le curve di costo sono diverse in Italia, non è che sono uguali, dopodiché fare per ognuno di essi una specie di mega trattativa con un borsino tecnico condiviso per poi arrivare a ponderare i valori, molti dicono non se ne esce più, e quindi il criterio potrebbe invece essere quello più semplice, più banale se volete, di dire: individuiamo una quota capitaria per, cioè, cittadino della regione che è condivisa, che è standard. Corretto, professor Pamolli? Sì, correttamente prima, come dicevo, Antonini ha identificato sia la natura del problema amministrativo sia la natura del problema politico, per cui una risposta numerica alla sua domanda che cosa accade quando si passa da un criterio all'altro dipende poi dai dettagli dei criteri. Ma l'aspetto più rilevante legato alla scelta dell'uno o dell'altro criterio, quindi o di un criterio basato su una quota capitaria ponderata, ad esempio ponderata sulla base della demografia, abbiamo variabili ormai consolidate anche in sede di patto di stabilità europeo che, con tutte le imperfezioni possibili, sono state però accettate come standard comune in sede comunitaria, che sono legate alla quota percentuale di spesa fatta 100 la spesa nell'arco di vita dell'individuo ripartita per le fasce di età dell'individuo stesso, e sappiamo che una quota molto alta della spesa si concentra ovviamente nella fascia dai 65 anni in su. Quindi una ponderazione sulla base della struttura demografica della popolazione andrebbe al di là di una quota capitaria semplice che non tenesse conto, ad esempio, della demografia. Ma certo, questo, come correttamente sollevava e osservava Antonini, è già un livello di dettaglio. Noi abbiamo svolto il nostro esercizio, di cui parlo tra un secondo, sulla base di questo criterio. I passaggi, a mio avviso, più importanti legati alla scelta di un criterio così sintetico, aggregato e semplice come quello che ho appena richiamato, versus un criterio che dovesse pretendere di fondare la determinazione di livelli standard di costo e di volume a partire dal basso, è una sorta di dogma che sto, anche se non sono dogmatico per indole, tenendo fermo nell'analisi del federalismo, che, se gli ascoltatori e lei lo consentono, è bosco fitto, brigante sicuro. Cioè a dire, quando si vanno a determinare microfondazioni dei costi, dei livelli standard, lo spazio per comportamenti opportunistici, per rinegoziazioni ex post, per dire ma non avevamo considerato questo parametro, per dire ma il fabbisogno emerge dal basso e non dai vincoli di bilancio, è uno spazio che abbiamo conosciuto nella storia della Repubblica. Direi di sì. E che è stato poi usato anche dietro il costo standard. Noi abbiamo nella sanità il costo standard nominalmente esistente fin dal decreto 56-2000. Abbiamo avuto 10 anni di sperimentazione delle cosiddette tariffe di RG. E questo era un obiettivo di standardizzazione tariffaria che ha fallito per ragioni che sono legate a fallimenti intrinseci di sistemi di piano che non abbiano feedback e che non abbiano peraltro meccanismi di, in questo caso, un piano talmente imperfetto da non aver neppure standardizzato le regole contabili. Allora, in questo momento di trasformazione istituzionale nella storia della Repubblica, una legge molto importante, che però deve trovare il tempo per essere attuata, non è solo quella riferita al decreto riferito al federalismo, alla 42, ma è riferita alla nuova legge di bilancio dello Stato, certo, che è stata approvata a fine anno. Quella legge offre l'infrastruttura contabile, gli elementi di programmazione, gli elementi di controllo che possono essere realizzati a supporto dell'azione federalista, ma che ci dicono che in una fase di transizione nella quale l'amministrazione delle regioni e i divari di competenze, di architetture contabili, informatiche, di rilevazione, di assetti anche politici tra le regioni è tale da lasciar pensare che un riferimento a un vincolo di bilancio definito a livello nazionale che ci dica qual è ogni anno la quota assegnata alla spesa sanitaria pubblica a livello nazionale e un criterio il più possibile esogeno rispetto all'azione delle regioni, il più possibile legato a parametri oggettivi, che siano la demografia come l'ho richiamata, che siano la demografia tenendo conto dei flussi migratori per verificare se non ci siano delle condizioni sanitarie particolari, che sia ponderata con qualche minimo indicatore epidemiologico, ma che non sia legata alla... Ecco, questo consente, a mio avviso, di impostare un piano di convergenza tra le regioni che consenta anche di risolvere in parte il grosso problema politico che ci troveremo di fronte quando alcune regioni dovranno essere chiamate a convergere a un livello di finanziamento significativamente inferiore rispetto a quello che ricevono oggi. E che nel vostro esercizio di simulazione, che poi si trova sviluppato sul sito del CER per chi volesse approfondire, una volta adottato il criterio della quota capitale corretta per tipologia demografica come da lei illustrato, porta, se non ricordo male, a un riequilibrio a danno naturalmente delle regioni, insomma, soprattutto del sud, eccetera, ci siamo capiti, ma cos'è nell'ambito dei 12-8 miliardi? Sì, che ad esempio vede la Campania chiamata a riequilibrare per un importo che del resto non si discosta poi di molto dalle stime della Corte dei Conti e da altre analisi analoghe che anche prima lei richiamava, attorno a 1.265 milioni di euro. Allora, alla ferma un secondo, perché io intanto ricordo un dato, poi abbiamo un altro interlocutore che sentiremo con altrettanta attenzione. Io ricordo che la fotografia della spesa sanitaria pro capite tra le diverse regioni ha una media in Italia più o meno di 1.793 euro di spesa pro capite, questa è la media a corte dei conti, ma vi sono regioni come il Veneto, come la Lombardia, in cui si è molto al di sotto di questi 1793 euro pro capite di spese sanitarie, il Veneto 1771, la Lombardia 1735, vi sono naturalmente provincia autonoma di Bolzano 2237, si sfora verso l'alto moltissimo, vi sono poi man mano che si scende il Lazio 1974 rispetto alla media 1793, il Molise 2036 rispetto alla media del 1793 e così via. Quindi è evidente che la media vuol dire poco, il problema è la qualità della spesa regionale. Allora l'interlocutore che abbiamo tenuto in ascolto in aggiunta è un interlocutore particolare, innanzitutto perché è un assessore alle politiche sanitarie di una regione importante, poi perché è di una regione importante del nord, il Veneto, che è praticamente con la Lombardia considerata la più efficiente in sanità, e poi perché si chiama Luca Coletto e ovviamente rappresenta una parte importante dal punto di vista politico che da 20 anni si è battuta per questa riforma, e cioè la Lega. Allora, grazie assessore Coletto. Ora io le cederei la parola, perché immagino che dopo tanto ascoltare ne avrà da dire, primo a nome della sua forza politica, secondo soprattutto a nome della sua regione, e terzo perché abbiamo visto che qua i problemi sul tavolo per il decreto del costo standard del federalismo fiscale sanitario in realtà tecnicamente sono ancora molti. Prego, a lei la parola. Buongiorno a lei, buongiorno ai radiospettatori. I costi standard sono importanti, noi come Regione Veneto, non Lombardia, Veneto, ci abbiamo lavorato, ci stiamo lavorando. Sarei d'accordo con chi mi ha preceduto sull'andare a definire determinati criteri, ad esempio l'età è un criterio importante, ad esempio regioni dove la cittadinanza, gli abitanti sono giovani o sono compresi fra un'età dai 4 ai 60 anni, sono per la maggior parte, diciamo, hanno costi nettamente inferiori, perché è risaputo che la sanità costa meno all'interno di quell'ambito. Quindi quello è un criterio importante per andare a definire. Veneto e Lombardia, in particolare il Veneto, ha un grosso numero di anziani che però non vengono assistiti all'interno degli ospedali per acuti, perché noi, come si sa, rispettiamo quello che è il limite di 4 posti per 1000 abitanti, diciamo all'interno del numero posti letto negli ospedali. Questo è un dato importantissimo, quindi si devono evitare i piccoli ospedali, si devono evitare le concentrazioni di ospedali all'interno di determinate zone per riuscire ad abbattere i costi. Gli anziani vanno assistiti all'esterno di quelli che sono gli ospedali veri e propri, non devono occupare posti per acuti, ma devono essere evidentemente assistiti nelle residenze, nelle RSA, nelle residenze assistite protette, in maniera tale da battere quelli che sono i costi. Pensi che addirittura Israele non ha nemmeno un parametro di 4 posti letto per 1000 abitanti, ne ha 2. Sì. Gli anziani vengono assistiti attraverso, esatto, la telemedicina a casa. Esatto. A casa, quindi nel rispetto della dignità di un anziano, che è bene che sia assistito a casa, che si trovi fra le pareti domestiche, peraltro avendo un'assistenza corretta, vicina e dovuta, ed essendo parametrato attimo per attimo da un medico che attraverso la telemedicina, attraverso l'informatica, riesce ad assistere in maniera precisa e riesce ad avvertire in tempo se ci sono problematiche di intervenire in maniera appropriata quando serve. Quindi uno dei concetti fondamentali è quello di andare a razionalizzare quelli che sono i posti letto, evitare gli ospedali piccoli che non servono, evitare le sovrapposizioni di cardiologie vicine, ad esempio, non serve più di una cardiologia nel giro di 10-15 chilometri, serve avere un'eccellenza cardiologica in maniera tale che possa essere sfruttata, che abbia anche un numero di pazienti tali che gli permetta di sostenersi e di dare un servizio eccellente e corretto. Io ricordo, non la voglio interrompere, ricordo chi ci ascolta che sono oltre 40 i presidi ospedalieri, si calcola secondo, insomma, i criteri di convergenza di che cosa dovrebbe essere un ospedale per popolazione servita, per tipo di servizio che offre, cioè sono più di 40 i presidi ospedalieri nelle regioni del sud che non rientrano in questi criteri, più di 40 presidi ospedalieri che non avrebbero mai dovuto essere aperti, costruiti, eccetera, eccetera. Prego. Questo è un parametro importante, dottore. Si deve partire di lì per riuscire a costruire dei costi corretti. Si deve partire dal parametro di quelli che sono gli ospedali sul territorio. Gli ospedali piccoli vanno evitati, evidentemente, a meno che non ci siano particolari peculiarità territoriali. Mi viene in mente, che ne so, la montagna. Certo, l'orografia. Ecco, l'orografia del territorio. Peraltro, per limitare anche gli accessi negli ospedali, quindi occupazione indebita di posti per acuti, oppure eccessivo proliferare di persone che si presentano in pronto soccorso, va costruita una rete territoriale, ambulatoriale, sia specialistica per il primo intervento, in maniera tale che funzioni da filtro prima di arrivare nei pronti soccorsi e assistere ai disagi che assistiamo giornalmente un po' dappertutto. Quindi prima i principali parametri sono proprio questi, se si vuole risparmiare, perché ricordo che l'ospedale costa, oltre che per il personale, e anche qua va creato un parametro rispettato per riuscire poi a calcolare i costi standard, viene a costare anche per la manutenzione, viene a costare per il riscaldamento, viene a costare per un po' per tutto. Costi standard, sanità, federalismo fiscale, decreti di attuazione della delega in arrivo, abbiamo capito, tentato di spiegarvi col tutto il tempo necessario e la profondità anche di dettaglio necessario per spiegare bene e per evitare le solite polemiche sulle formule. Come vedete, di problemi ce ne sono tanti, non è ancora risolto il problema dell'infrastruttura condivisa contabile, ci sono presenti regioni che non hanno neanche le carte di quanto hanno speso in sanità. Questa io la considero una cosa veramente di una gravità incredibile. Però, nel mentre al signor Coletto la apriamo di ascoltare un paio di telefonate dei nostri ascoltatori per commentarle con lui, cominciamo appunto con le telefonate. Oggi le abbiamo tenute un po' troppo in subordine perché il discorso da fare era un po' tecnicamente complicato e aveva bisogno di tempo. Allora, iniziamo con Riccardo Fatarella che ci chiama da Roma. Buongiorno Giannino e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma il discorso è molto semplice, paradossalmente, poi tendiamo a complicarlo un po'. Quello che diceva l'assessore del Veneto è condivido. Io sono un operatore della sanità, tra l'altro, della sanità del Lazio. I costi standard, la quota capitaria ce l'abbiamo da decenni in Italia, come finanziamento. La domanda è come mai alcune regioni ci riescono a stare dentro, le avete citate più volte, e altre come la mia purtroppo non ce la fanno. Allora il problema non è il costo standard, è il manico standard, cioè se esatto. Si è capace a gestire, perché il costo è stato definito. No, temo che il problema sia il meccanismo coattivo che obbliga o non obbliga a rispettarlo, perché questo... Perfetto, allora non è un problema di tecnicalità del costo, no, ma di gestione. Allora, come mai un ospedale, un posto letto nelle cliniche accreditate, controllate, quelle che lavorano bene, ce ne sono la gran parte, rientra nei DRG e gli imprenditori, non moltissimo ma ci guadagnano, se no cambierebbero mestiere. Certo. E gli ospedali, magari piccoli ospedali pubblici o i grossi policlinici universitari, non ci rientrano. Questa è la domanda alla quale cerchiamo tutti di dare una risposta. E io ringrazio la voce di Fatarella perché ci consente di sottolineare un punto, che siccome molti nel dibattito buttano facile polemica contro la sanità privata, che è quella che naturalmente gonfia i costi per interessi impropri degli imprenditori, è il contrario. In realtà la sanità privata è quella che consente gestioni più efficienti e che è obbligata alla contabilità trasparente nella prestazione di servizio e poi per ritornarci nel proprio conto economico. Quello che la sanità pubblica spesso tende a non fare, perché non c'è il meccanismo di rendiconto né politico né amministrativo né patrimoniale come responsabilità. Quindi secondo me Fatarella coglie proprio un punto. Allora Filippo ancora dalla provincia di Milano e poi chiediamo un commento all'assessore Coletto. Filippo, prego. Sì, buongiorno Giannino. Io vorrei fare una domanda, magari la risposta è già scontata, sono io che sono nell'ignoranza, come si dice. I bilanci delle aziende pubbliche, compreso lo Stato, vengono pubblicati? Beh, perdoni, certo che sì, non sono mica segreti, certo che sì. Perché mi trovo in grossa difficoltà a discernere ci sono i soldi, non ci sono i soldi, enti inutili, non enti inutili, ma mi piacerebbe sapere nomi e cognomi delle voci di spesa e delle voci di entrata. Ma guardi, io le posso dire da cittadino, come consiglio tecnico, da cittadino si può levare molte di queste curiosità se va sul sito della Corte dei Conti. La Corte dei Conti per branca e tipologia di pubblica amministrazione centrale e periferica ha le sezioni specializzate non solo nei controlli di legittimità ex ante, ma in quelli poi ex post sulle spese della pubblica amministrazione, ripeto, centrale, periferica, e con comparazioni trasversali e orizzontali può trovare una enorme messa di dati. Di solito lo facciamo noi come addetti ai lavori, ma ogni cittadino può farlo, per esempio sul sito della Corte dei Conti. Si arrabbia molto, naturalmente perde parecchio tempo per leggere e capire, ma dopo si arrabbia molto, questo glielo posso garantire. Ancora Giampaolo da Milano, rapidissimo. Niente, volevo solo un attestato di stima questo. Io sono un operaio e imprenditore come seconda attività e volevo ringraziarvi per questo lavoro che secondo me è alla base, perché prima di agire bisogna capire, e questo è anche un messaggio politico per chi vuol capire e chi vuol intendere intenda, che tutto quello che state facendo, lei mi capisce Giannino, perché penso di avere un'empatia, no, con ma lei io, che, sì, ma io credo che tentare di spiegare, di far capire, sia la base per qualunque cosa, poi ognuno ne trae le conseguenze che ritiene, per carità, ma... E ribadisco, sono un operaio dipendente e come seconda attività fa l'imprenditore, e tutto quello che fate e dite alla base. Grazie Giampaolo. Allora, facciamo un po' di domande secche all'assessore Coletto. Innanzitutto, lei cosa ne pensa dei suoi colleghi di altre regioni che si trovano a dire: ma io veramente non so cosa dirvi, la contabilità della sanità non ce l'ho, non sono in grado di produrla, eccetera. Cosa bisognerebbe fare? Perché l'osservazione, il problema non è tanto nei criteri tecnici, ma nel manico, nel meccanismo coattivo di rendiconto, mi sembra un po' fondata. Lei che dice? Ma guardi, la legge sul federalismo presuppone anche una responsabilità degli amministratori. Noi, il mio partito, almeno si è battuto parecchio perché ci sia questa responsabilità, e se un amministratore provoca bancarotta, provoca sforamenti e via via via, per quanto ci riguarda la nostra proposta non è nemmeno più eleggibile. Quindi determinate situazioni verrebbero eliminate alla radice. Secondo poi, facendo riscontro al primo signore che è intervenuto, all'operatore della sanità, si diceva appunto che la sanità privata è più efficiente di quella pubblica, ma sa, io dico, dipende da chi la governa, dipende appunto dal manico, perché esatto, in Veneto la sanità è al 90%, 98% pubblica e solo un 2% di privato. C'è una perfetta integrazione, il privato da noi fa attrazione dalle altre regioni, quindi non ci costa più di tanto, ma diciamo che si paga paradossalmente facendo attrazione dalle altre regioni. Si evitano i doppioni, è inutile comprare due TAC vicine, le TAC vanno sistemate in maniera tale che possano rendere un servizio ai cittadini e possano lavorare nel maggior ore possibile al giorno, in maniera tale da ammortizzarne anche prima, cioè investire in maniera oculata ed evitare di fare investimenti a lungo termine, in quanto quello che è il progresso, soprattutto tecnico, in sanità è un progresso molto veloce. Di conseguenza, si vuole rimanere aggiornati su quello che è l'ambito tecnico dei macchinari che vengono usati con finalità sanitarie, deve essere appunto un investimento a breve, medio termine, mai a lungo, per evitare appunto di rimanere indietro con quella che è l'evoluzione e rendere un servizio obsoleto. Assessore, un'ultima domanda flash: se dovesse esprimere un'opinione, capisco la responsabilità istituzionale a cui è tenuto e alla testa dell'amministrazione sanitaria ad una importante regione del nord, quindi non può dare, insomma, dichiarazioni generali, ma in realtà la sua aspettativa sui tempi di definizione di questo decreto attuativo, che è centrale per il federalismo fiscale, quali sono? Ma io mi auguro, soprattutto per il rispetto dei nostri cittadini, che sia il più veloce possibile e che nel giro massimo di un paio d'anni si arrivi a centrare effettivamente, ad avere tutti quanti i decreti delega, cioè i decreti attuativi che partono e che effettivamente si possono dare queste risposte. Ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, se si vuole porre un limite alla sanità bisogna partire dal basso, cioè dalla razionalizzazione delle strutture, dalla razionalizzazione del numero del personale, deve essere un numero corretto, e dalla razionalizzazione di quelli che sono gli acquisti. Da noi gli acquisti si fanno per area vasta, cioè si fanno delle grosse gare d'appalto in maniera tale da abbassare il più possibile quelli che sono i costi d'acquisto, che sono costi importanti per quanto riguarda il materiale sanitario. Oh, io la devo interrompere perché il nostro tempo è finito. Naturalmente io ricordo che in quanto a personale dipendente, cioè delle regioni sul totale della popolazione, l'Italia è molto differenziata, perché su 1000 abitanti noi andiamo alla regione del nord 0,88 dipendenti regionali, la quota è più che doppia per le regioni del sud. E quindi c'è sempre questo problema di mezzo. Allora, abbiamo concluso, grazie al signor Coletto, grazie al professor Fabio Pamolli. Sul sito del CERM trovate i numeri del federalismo, una simulazione per la sanità molto più in dettaglio di quanto abbiamo potuto fare oggi su questa simulazione con la quota capitaria e più di 12 miliardi che andrebbero recuperati dalle regioni che spendono peggio, e avete sentito anche il presidente Antonini dalla commissione tecnica. Quindi aspettatevi ancora tempi un pochino problematicamente lunghi, come vedete i problemi però sono abbastanza complicati, ma ce n'è uno di fondo: qual è il bastone da usare per obbligare l'assessore regionale, il responsabile politico, a non raccontarmi balle, dicendo che poi la colpa è di qualcun altro, sempre. L'appuntamento a lunedì, grazie al Giornale Radio.